Proseguiamo, abbiamo ancora una manciata di canzoni da proporre e sicuramente in questa manciata non può mancare lui, Mr. Buddy Holly. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day. The Day, era Buddy Holly dal Texas con una delle sue tante perle, tante. Sì, ne ha fatte tante in un lasso di tempo veramente brevissimo. E ancora non esiste una raccolta, un cofanetto che le possa includere tutte per questioni legate ai diritti. Questa cosa non la capisco bene, devo farmela spiegare da qualche esperto, perché sono passati 50 anni dal 58, no, ci siamo adesso. Allora, fra pochissimo potremo godere delle incisioni di Buddy Holly da parte di una serie di case discografiche che vorranno ristamparle, perché adesso le ristampano in maniera così non uniforme, ecco, e quindi ti costringono a comprare molti dischi diversi per riuscire a mettere insieme magari tutto il suo repertorio, che non è infinito. Insomma, ha inciso dischi soltanto per 3 anni. Era Buddy Holly, chi lo dimentica più? E adesso i Blasters, ancora i Blasters, no, tranquilli, i Blasters attraverso Josie Kreuzer and their Hot Rod Lincoln. La canzone è dei Blasters e si intitola Red Rose. Ragazzi, tenetevi forte. E rockabilly con Good Morning, Good Rockin' Morning, come si può dire? Hey! Red Rose dei Blasters nelle mani di Josie Kreuzer. Sì, brava ragazza, grintosa, bravissima, bellissima. Siamo davvero agli sgoccioli. Maurizio Faurisi vi annuncia che fra un quarto d'ora andrà a dormire dopo questa lunga maratona, infinita maratona dalle 22 fino alle 8 del mattino da Rock FM con del sano rock and roll. Qualcuno ha scritto che con i suoi 65 anni questa musica lo rende davvero felicemente giovane, e allora andiamo ancora a ritroso a trovare una canzone di Elvis, ma ancora una volta sarà una cover, grazie al cielo, eseguita da un artista. Parlo di Marty Stewart, che ha dimostrato e dimostra ormai già da molti anni di essere uno dei più validi countrymen di Nashville. Don't be cruel. If I made you mad, was it something that I might have said? Please let's forget the past, 'cause the future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross of my heart. Let's walk up to the preacher, let's us say I do. Then you know you have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel heart that's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Well, I don't want no other love, baby. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Era Marty Stewart con quel classico di Elvis Presley che porta il titolo di Don't Be Cruel. E arrivano, continuano ad arrivare i messaggi nonostante io non dia il numero di SMS da ore. E insomma, ragazzi, siete davvero grandi. Oi Maurì, direi che ce l'abbiamo fatta. È dalle 22.45 che ti ascolto, docce fredda alle 6 a parte. Ma dopo si va a nanna, e beh certo, ti sfido a tirare fino a stanotte il caffettone, eccetera eccetera. Grazie Gemma, sei stata veramente grande, grande, grande. Ci abbracceremo molto presto, spero. Sicuramente a Firenze, quando il 1° giugno lì si recherà l'intera Rock Family, sicuramente il 31 maggio alla chiusura di Rock FM alle 18, e vi aspettiamo tutti, perché a tutti quanti vi vogliamo abbracciare fisicamente. Don't worry baby, don't worry baby, don't worry, e sono i Los Lobos, da un vecchio disco dei primi anni 90, che ancora graffia, che ancora fa ballare, che ancora fa muovere le gambe nonostante le 10 ore di diretta da Rock FM. Via con i Los Lobos! Standing there by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door. By the window, staring out at the night. You see your lover leaning against the old street light. But don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep. He said you shouldn't bother, it was just a dream. So where was he going? Heading down the street. E avete capito, i lupacchiotti di Los Angeles si difendono bene, sempre loro, sempre loro. Stiamo parlando dei Los Lobos, i Los Lobos, quelli della Bamba, che riescono a fare cose veramente potenti, lo hanno fatto già all'inizio della loro carriera. Qui eravamo nella seconda metà degli anni 80, eravamo con il loro primo album, Don't Worry, Don't Worry Baby. E ora attraversiamo gli Stati Uniti con una scioltezza incredibile, e andiamo a trovare nel sud-est degli Stati Uniti, esattamente in Georgia, un grande country rocker che ha una voce dalle forte venature country rock, rock sudista, ma persino blues, tant'è che lo hanno voluto nella colonna sonora del film Blues Brothers, il secondo, quello brutto per intenderci. Bellissimo il primo, un po' meno il secondo, ma la presenza di Travis Street, e di lui che stiamo parlando, lo rende forse ancora più carino di quello che è dal punto di vista della sceneggiatura. Allora si va avanti, ancora un paio di canzoni, questa è Trouble e Travis Street. Everybody else having hands on the dance hall floor. Mercy, look what just walked through that door. Walking, honky, talking, baby. The men are gonna love you and the women gonna hate you. Reminding them of everything they're never gonna be. Maybe the beginning of a World War III. Cause the world ain't ready for nothing like a wild of you. I bet your mama must have been another good looking mama. Avete sentito con il rock and roll come va giù duro il nostro Travis Tritt, ed è altrettanto bravo quando si impegna a fare country, quando si impegna a fare rock, quando si impegna a fare qualunque cosa, è un grand'uomo. Il suo nome è Travis Tritt, non è facilissimo trovare le sue cose in Italia, ma che ci vuole, andate in internet e ve lo fate mandare dagli Stati Uniti in un attimo. Va bene, a questo punto credo di potervi far ascoltare anche John Lennon. John Lennon amava il rock and roll, i Beatles sono nati grazie al rock and roll, ma anche ai Rolling Stones, per inciso. Il buon John Lennon nel 1975 se ne uscì con un album che diede il via al Faulisi per la sua lunga storia d'amore con il rock and roll. Il 1975 John Lennon lo dedicò a incidere Rock and Roll, un album che si intitolava proprio così, Rock and Roll, dalla quale adesso ci ascoltiamo una canzone, un medley, Bringing Home to Me e Send Me Some Lovin', e John Lennon. Bring your sweet loving, bring it on home. To Me con Some Lovin', Send Me Some Lovin', componeva il questo medley presente in quella che è la definitiva dichiarazione d'amore verso il rock and roll da parte di John Lennon, datata 1975. E ora l'ultima canzone, con cosa finiamo? Beh, finiamo con quella canzone, con la stessa canzone che ha dato il via, ha aperto la Good Rockin' Tonight qualche anno fa, ho perso il conto. Era una canzone di Elvis Presley, con quella che chiudiamo. L'ultima trasmissione di Good Rockin' Tonight, che andrà in onda il 29, invece sarà chiusa da un'altra canzone che ho già in mente. Ok? Elvis Presley, è lui. J. Lous Rock, è con lui che iniziamo l'avventura di Good Rockin' Tonight. È con lui che finiamo questa lunga nottata di Good Rockin' Tonight da Rock FM. Rock, Elvis Presley a chiudere questa lunga nottata di Good Rockin' Tonight. Dalle 22 di sabato 24 maggio alle 8 del mattino di domenica 25 maggio, Maurizio Faulisi ha condotto Good Rockin' Tonight per voi. Ci siamo divertiti? Mi fa abbastanza impressione lasciare gli studi di Rock FM con la luce, è la prima volta che avviene, è una cosa che ci tenevo davvero fare ed è stato piacevole. Adesso vado a fare colazione con i miei amici genovesi che sono venuti da Genova con una 127 apposta per incontrarci, e vado a fare colazione con gli amici che hanno passato con me la nottata. Il caffè lo berrò alla vostra salute e che il grande Buddy Holly sia sempre con voi. A presto. Another turning point, a fork stuck in the road.

Than you think. Oh, my pure, your veneers wearing Station in the world. It's Rock FM. Bible, 'cause it's giving them a thrill.

You turned into